Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata della domenica del Cacciatore di Libri parliamo di due scrittrici in qualche modo legate fra loro, Manara Yoshimoto e Amelino Tomb. Sono due autrici di culto, amate in tutto il mondo, e sono accomunate dall'amore per il Giappone. Yoshimoto naturalmente è giapponese, nata e cresciuta in Giappone, vive tuttora in Giappone, mentre Amelino Tomb è belga, ma ha vissuto molti anni, soprattutto gli anni della formazione, in Giappone. Partiamo da Manara Yoshimoto. Molti la conoscono per la sua opera prima, Kitchen, pubblicato in Italia nel 91, diventato bestseller internazionale. Ora è stato pubblicato il quarto e ultimo volume della tetralogia Il Regno, iniziata con Andromeda Heights e proseguita con Il dolore, le ombre e la magia e Il giardino segreto. Quest'ultimo romanzo si intitola Another World, pubblicato in Italia da Feltrinelli con la traduzione di Gala Maria Follaco. La tetralogia racconta la storia di una donna, Shizuku Ishii, cresciuta con la nonna, guaritrice in montagna, in completa simbiosi con la natura, costretta poi a trasferirsi in città dove vive una sorta di strappo. In quest'ultimo volume la protagonista però non è Shizuku Ishii, ma la figlia, Noni. Noni torna nell'isola di Mykonos, dove incontra un uomo, Kino, che le ricorda suo padre. Ecco come Manara Yoshimoto descrive la sua protagonista, con la traduzione in presa diretta di Gala Maria Follaco. Questo personaggio è introverso in modo quasi esasperato, quasi disperato, e al punto da non riuscire neanche a comprendere fino in fondo i propri sentimenti, che poi è il motivo per cui tende ad avvicinarsi a persone molto forti, dalle personalità particolarmente forti, proprio perché è un modo per compensare la propria fragilità, la propria impossibilità di comprendersi. E credo che nella mia opera nel complesso un personaggio di questo tipo sia piuttosto raro. All'inizio del romanzo vediamo che Noni torna nell'isola di Mykonos perché lì aveva vissuto un periodo molto bello, 2 settimane di vacanza con quello che lei definisce il suo papà, perché lei dice che ha 2 padri, il papà e il papà numero 2. Nel momento in cui arriva nell'isola di Mykonos, incontra un uomo che per la sua fisicità le ricorda proprio suo padre, che si chiama Kino. Che rapporto, che strana relazione di empatia si stabilisce fra i due? Tra i miei lettori ci sono delle persone particolarmente sensibili, particolarmente anche fragili a volte, che non riescono a vivere fino in fondo all'interno di una società così, così aggressiva, così competitiva come quella di oggi, non riescono a trovare il proprio posto. Noni è sicuramente una di queste persone, ed è una persona che, incontrando Kino, scopre non tanto l'amore, non è tanto sull'amore che volevo fare lei, quanto piuttosto sulla possibilità di incontrare una persona simile a sé, e quindi un compagno, un amico, una persona che ci sappia capire. A questo proposito lei scrive, il romanzo è raccontato in prima persona da Noni: in fondo al mio cuore c'era sempre stato un posto, sempre, sin da quando ero bambina, in cui andavo a rifugiarmi, e avevo la sensazione che ce ne fosse uno uguale anche dentro di lui. Noni percepisce proprio, come dire, una profonda sintonia con quest'uomo, anche se l'ha appena conosciuto. Noni non ha fiducia in se stessa, dicevamo, e proprio perché non ha fiducia in se stessa e nella propria capacità di entrare in contatto con il mondo, di relazionarsi con le altre persone, tende a rifugiarsi all'interno del proprio cuore, della propria anima, dentro di sé. E però riesce a percepire che un luogo come quello ce l'ha anche Kino, quindi che anche Kino è come lei. E ci riesce non tanto perché è introversa, ma perché ha quella sensibilità delle persone introverse. Le persone introverse hanno una sensibilità particolare che le aiuta a capire meglio gli altri, paradossalmente. Kino e Noni sono 2 persone ammaccate dalla vita, insomma, si portano un dolore, sono persone ferite. Nei suoi romanzi c'è sempre l'incontro fra 2 persone che in modo completamente diverso si portano dentro un dolore. Perché? の中で声が大きい人、それから行動力があって。 Penso che al mondo ci siano due categorie di persone. Ci sono i forti, quelli che parlano sempre a voce alta, che sono pieni di spirito di iniziativa, riescono a fare grandi cose. E poi ci sono quelli un po' più fragili, che parlano a voce più bassa, che vivono in un mondo che va molto più in profondità e che tende a non venire mai alla luce del sole, e sono anche persone che tendono a soffrire di più. Ed è proprio in un certo senso per consolare queste persone, per far sì che loro stiano un po' meglio, che io scrivo, e questo è il motivo per cui ci sono questi incontri all'interno dei miei romanzi. In un'intervista che avevamo realizzato un paio di anni fa sul romanzo Il Lago, lei mi aveva detto che il tema fondamentale della sua opera non è tanto l'amore, la morte, la perdita, ma la consolazione. Quindi è questo il tema fondante della sua opera. Perché insiste sul tema della consolazione? Sono passati 2 anni e in questi 2 anni ho riflettuto ripetutamente a fondo sul significato stesso della parola consolazione, che cos'è la consolazione. E una risposta me la sono data. Io credo che in fin dei conti la consolazione per ciascuno di noi non sia altro che noi stessi. Siamo noi che dobbiamo consolare noi stessi. Da Banana Yoshimoto, che ci ha parlato del romanzo Another World, ultimo volume della tetralogia Il Regno, pubblicata in Italia da Feltrinelli, passiamo ad Amelino Tomb, autrice di libri come Igiene dell'assassino, Stupore e tremori, Cosmetica del nemico. L'ultimo libro si intitola Riccardin dal ciuffo, pubblicato in Italia da Voland con la traduzione di Isabella Mattazzi e la rivisitazione di una fiaba tradizionale francese. Da una parte c'è Deodato, un bambino bruttissimo, che viene bullizzato a scuola, ma nello stesso tempo è molto intelligente e anche ironico e autoironico. Dall'altra vediamo Altea, che è una bambina bellissima. Crescendo, i due sono destinati ad incontrarsi. Sentiamo Amelino Tomb, tradotta da Daniela Di Sora, fondatrice e direttrice della casa editrice Voland. J'ai choisi un conte parce que les contes sont terriblement importants pour moi. Ho scelto una favola perché le favole sono molto importanti per la mia formazione. Io sono cresciuta con le favole occidentali e con quelle orientali. Le favole sono il mio scheletro. Ho scelto Riccardin dal ciuffo perché adoro questa favola. È la versione un po' modificata della Bella e la Bestia. Quando nella Bella e la Bestia la principessa alla fine della favola si innamora del mostro, gli dà un bacio e il mostro si trasforma in un bellissimo principe. È orribile tutto questo. La principessa si è innamorata di un mostro. Che se ne faceva di un principe bellissimo? In Riccardin dal ciuffo la favola rispetta il desiderio della principessa. Lei si è innamorata di un mostro e lui rimane mostro. De la belle princesse, elle reste avec son monstre à la fin et elle est très heureuse. Parliamo nel dettaglio dei personaggi di questo romanzo, l'abbiamo visto, e insomma ispirato fortemente ad una storia che inizialmente si intitolava Enrichetto dal ciuffo. C'è questo bambino bruttissimo, veramente brutto, che si chiama Deodato. Appena nasce i genitori sono stupiti da quanto veramente sia brutto. Anche sua madre fa fatica, non dico ad amarlo, ma insomma quasi ad accettarlo. Tant'è vero che i primi anni della sua vita viene tenuto nascosto dalla società, poi inizierà a essere visto solo quando andrà alla scuola elementare. Però è un bambino di un'intelligenza straordinaria. Tu ci descrivi tutte le sue riflessioni su quando vede muovere, diciamo, sulla sua scena il padre e la madre. Si ha come la sensazione che Deodato sia superiore a loro, sia più furbo, sia più intelligente, sia più scaltro. È come se li prendesse un po' in giro. È così? È parzialmente esatta questa sensazione, perché lui ama moltissimo i suoi genitori, ma nello stesso tempo ha consapevolezza del ridicolo del modello culturale dei suoi genitori, e dunque, come dire, si muove entro questi due parametri. Il ne leur fait pas sentir à quel point il les trouve ridicule. Appena Deodato inizia ad andare a scuola, i bambini, i compagni di classe lo prendono in giro per la sua estrema bruttezza. Lui si era reso conto di questa bruttezza poco tempo prima, insomma, rispecchiandosi, insomma, in uno specchio, comunque aveva ricevuto l'immagine, la sua immagine. Che reazione ha Deodato alla sua bruttezza e soprattutto come riesce a resistere, insomma, allo scherno dei suoi compagni di scuola? Lui si fa scudo, si protegge. Deodato è estremamente conscient de sa laideur. Lui è orribilmente scioccato quando si vede riflesso, quando vede la sua immagine, però ha l'intelligenza di non farne un dramma. Si dice: ok, sono brutto, va bene, che problema c'è? E quando lui si trova a scuola, capisce la reazione dei suoi compagni rispetto alla bruttezza e all'intelligenza di adottare una strategia, quindi li prende ad uno, sapendo, intuendo che individualmente non faranno, come dire, muro contro di lui e contro la sua bruttezza in qualche modo, li separa, si fa amico uno per ciascuno i suoi compagni di scuola. Quand il n'a pas affaire au groupe, mais quand il les prend individuellement, il peut s'en faire des amis. Altea invece è una bambina bellissima, da un'altra parte vediamo nascere da una coppia questa bambina meravigliosa, di una bellezza incredibile, che viene cresciuta in realtà poi dalla nonna. È bello quando tu dici che la sua caratteristica principale di Altea è lo stupore incantato. Questa bambina è spesso in contemplazione, ha questo atteggiamento di stupore incantato, ma perché anche lei, più intelligente di quanto non si creda, capisce che quell'atteggiamento le dà l'affetto della nonna e delle altre persone. È per questo che poi nella vita Altea passa per essere un po' sciocchina, stupida, poco intelligente. Elle est victime d'une malédiction beaucoup plus grave. Lei è vittima di una maledizione molto più grave rispetto a quella di Deodato. Lui sa di essere brutto e lo accetta in qualche modo. Lei invece, essendo bellissima, non può che suscitare gelosia nei propri confronti e sa che sarà detestata per questo, per la sua bellezza. Lei conferma la sua stupidità nel senso occidentale attraverso la meraviglia. In Occidente chi è perennemente in uno stato di meraviglia viene considerato stupido. En Occident, une personne qui a tout le temps l'air émerveillée est vue comme une personne stupide. Alors qu'en Extrême-Orient, où j'ai passé une grande partie de ma jeunesse, mentre in Oriente, dove come sapete io ho passato molta parte della mia vita, chi passa il suo tempo in stato di meravigliosa contemplazione taciturna, senza mai parlare, viene considerato estremamente intelligente. Par la même sa grande intelligence. Questa era Melino Tob che ci ha parlato di Recherdin dal Ciuffo, pubblicato da Voland. Anche per oggi è tutto, grazie a regia d'Andrea Roccabella. Vi ricordo che in questo periodo estivo gli appuntamenti con il Cacciatore di Libri si moltiplicano, come sempre al sabato alle 6.30 per i mattinieri alle 22 e la domenica alle 16.15 e alle 20.45. Trovate sempre tutto in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.